Seconda stella a destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese e Giancarlo Ricci. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere, poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Per incontrare l'amico immaginario di oggi dobbiamo fare un salto nel futuro, non a domani, nemmeno all'anno prossimo. Dobbiamo immaginare il nostro pianeta, l'umanità intera e tutte le civiltà che ospita l'universo nel 2200 e oltre, quasi 2300. Dobbiamo immaginare astronavi ed esplorazioni spaziali, armi e tecnologie mai viste prima, civiltà diverse dalla nostra, più evolute, più sagge o più crudeli. Dobbiamo immaginarci di spingerci, molto più veloci della luce, nello spazio sconosciuto, oltre l'ultima frontiera. Possiamo anche dire, dobbiamo arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Il nostro amico vive, come avrete capito, nel mondo fantascientifico di Star Trek. A dire il vero non è che ci viva solamente, ma ne è uno dei principali protagonisti, uno dei primi ad averci fatto conoscere questo futuro possibile, un futuro di certo desiderabile per tanti aspetti che vedremo più avanti. Il nostro amico immaginario di oggi è James T. Kirk, capitano della nave stellare Enterprise. Capitano Enterprise. Capitano Enterprise. La riceviamo, capitano. Mi faccia rientrare, signor Spock. Missione compiuta. L'abbiamo conosciuto sul finire degli anni 60, esattamente tra il 1966 e il 1969, anche se la sua notorietà e fama mondiale è arrivata più avanti nel tempo. Di quegli anni è la serie TV ideata da Gene Roddenberry e trasmessa negli Stati Uniti. Il nostro amico di oggi è un tipo affascinante, belloccio, coraggioso al limite dell'incoscienza, capace di leadership e di ribellarsi alle regole in nome della giustizia, dell'amicizia. Sciupa femmine, con un passato turbolento, dà il meglio di sé sulla plancia di comando dell'astronave Enterprise. Conosciamolo meglio. Specie umana, pianeta natale Terra, comandante della USS Enterprise affiliata alla Federazione Stellare. È la carta d'identità di James Tiberius Kirk, nato il 22 marzo del 2233, data stellare 1277.1, a Riverside, nell'Iowa, Stati Uniti. Per i puristi della serie, è stato cresciuto dai genitori George e Winona sul pianeta Tarsus IV. Nell'ultimo film, invece, il padre, comandante di una nave stellare, si sacrifica per salvare lui, la madre e gli altri passeggeri. Tuo padre ha comandato la nave stellare per 12 minuti. Ha salvato 800 vite. Tra cui la tua. Ti sfido a fare di meglio. Il suo nome viene da quello dei nonni. La pellicola di J.J. Abrams ce lo descrive come uno scavezzacollo, ma anche come uno dei più dotati allievi dell'Accademia della Flotta Stellare. Unico cadetto a superare il test della Kobayashi Maru, che mette gli studenti davanti a una situazione senza via di fuga, sarà il più giovane comandante della flotta e diventerà poi contrammiraglio. Qualche consiglio, ammiraglio? Cominci a pregare, signor Sarik. I Klingon non fanno prigionieri. Luci. Allievi, in sala operativa. Signor Savick, vuole restare sulla nave che affonda? Chiedo il permesso di parlare apertamente. Accordato. Questo non era il test giusto per saggiare la mia abilità di comando. Perché no? E me lo chiede? Non c'era modo di vincere. Può capitare a un comandante di dover affrontare una situazione disperata. Ci ha mai pensato? No, signore, non ci ho mai pensato. Sapere affrontare la morte è importante almeno quanto affrontare la vita, non crede? Ammiraglio, non sarebbe più facile rimettere un equipaggio esperto a governare questa nave? Galoppare nelle galassie è un gioco da giovani, dottore. Kirk è originale al limite del regolamento, sempre indipendente e fedele alla sua idea di giustizia, ostinato e appassionato, dotato di cervello e logica. Pensa o affonda, il suo motto. Sull'astronave i rapporti più profondi sono con il vulcaniano primo ufficiale Spock e con l'ufficiale medico McCoy. Sappiamo che il figlio David sarà ucciso dai Klingon, lui stesso scriverà che non potrà mai perdonarli per questo. Frase che sarà usata come prova durante il processo per la morte del cancelliere Klingon Gorkon. Condannato alla colonia penale a vita, viene salvato dal suo equipaggio e riesce a provare la propria innocenza. Chi è l'eroe di un eroe? Abramo Lincoln, 16° presidente degli Stati Uniti. Come abbiamo detto, il capitano Kirk dà il meglio di sé sulla plancia di comando dell'Enterprise, in mezzo al suo equipaggio. A bordo ha due colleghi che sono anche i suoi più cari amici, il signor Spock e poi il medico di bordo McCoy, detto Bones. Partiamo però dal primo. Metà vulcaniano e metà terrestre, primo ufficiale della USS Enterprise affiliata alla Federazione Stellare, questa è la carta d'identità del signor Spock, nato a Shirkar sul pianeta Vulcano il 26 marzo 2230, secondo il calendario locale 56 Tasmin 503. Il suo nome vulcaniano è ignoto a noi perché non pronunciabile dagli umani. I suoi genitori sono Sarek, un diplomatico di Vulcano, e Amanda Grayson, un insegnante terrestre. È il primo della sua specie, riconoscibile dalle orecchie a punta, ad arruolarsi nella flotta come assistente ufficiale scientifico. Raggiungerà però poi il grado di capitano. In lui si uniscono l'esaltazione della logica tipica dei vulcaniani, un'enorme cultura, e alcune emozioni umane, soppresse invece dalla razza aliena, anche se lui dice: «Le emozioni non sono per me, sono un uomo di scienza». Tuo padre sta morendo. Madre, tu hai sposato un vulcaniano, hai cresciuto per anni un figlio su Vulcano. Possibile che tu non capisca ancora cosa significhi essere un vulcaniano? Significa adottare una filosofia, un sistema logico di vita. Non possiamo venir meno a questa filosofia nemmeno per un profitto personale. Importante o meno che sia questo profitto. La sua gente è non violenta, ma conosce un'arte marziale che è disciplina filosofica e mentale, oltre che forma di difesa. Morto sul campo, per le radiazioni in una stanza di antimateria, grazie a una facoltà della sua specie riesce a trasferire la sua mente nel cervello del dottor McCoy e a recuperare successivamente il suo corpo. Il suo interprete più noto è Leonard Nimoy. Lui ha inventato il saluto vulcaniano con mignolo e anulare separati da dito indice e medio che deriva dalla tradizione ebraica. Zachary Quinto lo interpreta invece giovane nel film del 2009 in cui ricompare anche Nimoy. Rimanete con noi, l'amico immaginario torna tra pochissimo. L'amico immaginario. Ci rituffiamo subito nel mondo del nostro amico immaginario di oggi, James Tiberius Kirk, comandante della nave stellare Enterprise. L'uomo che ci ha condotto nel corso degli anni attraverso lo spazio alla scoperta di civiltà sconosciute, oltre l'ultima frontiera. Di quello che forse è il suo migliore amico, il signor Spock, abbiamo parlato poco fa. Ora tocca al secondo amico, il medico di bordo dell'Enterprise. Bones, ossa, un soprannome per Leonard Orazio McCoy, medico di bordo dell'Enterprise. Per descriverlo possiamo citarlo. Abbiamo imparato a controllare tutti gli organi del nostro corpo, eccetto uno, il cervello, e nel cervello è racchiusa tutta la vita. Il dottore, pur essendo uno scienziato, è l'animo passionale a bordo dell'Enterprise, controparte umana della logica vulcaniana di Spock. Dottore, se potessi provare qualche emozione, le direi che il suo abuso di questo termine comincia ad infastidirmi. Quale termine? Logico? I medici sono addestrati alla logica, Spock. Davvero, dottore? Non l'avevo mai supposto. Conoscendo lei avrei pensato esattamente il contrario. Un Nato nel 2227, ha frequentato l'Università del Mississippi. Il suo arruolamento è successivo alla sconfitta nella causa per l'affidamento della figlia dopo il divorzio, in fuga dal dolore per la perdita della sua famiglia. Nel 2269 si ritira dalla flotta ed esercita la professione privata. È stato interpretato da DeForest Kelley, morto nel 1999, nella serie classica, e da Carl Urban, lo avete già visto come Eomer nel Signore degli Anelli, nel film del 2009. Il capitano Kirk, inutile girarci intorno, a un viso e un nome nel mondo reale, è William Shatner, l'attore americano che lo ha interpretato nei 3 anni della serie cosiddetta classica e nei successivi 7 film della serie. C'è poi un volto più recente, quello del film uscito nel 2009 con la firma di J.J. Abrams. Chris Pine è un giovanissimo Kirk nella ripartenza della serie. Ecco qualche dettaglio in più. James Tiberius Kirk, ma non solo. William Alan Shatner deve la sua fama e la sua carriera di attore al capitano dell'Enterprise, ma non si è certo fermato lì. Nato a Montreal, in Canada, nel 1931, da un meccanico e da una casalinga, incrocia il ruolo del capitano dell'Enterprise nel 1966 e ne veste i panni fino al 1969. Appena 3 anni, ma sufficienti a creare il mito e dare lavoro a Shatner dopo un periodo buio all'inizio degli anni 70, per il resto della sua vita. Dal cartone animato del 1973 ai film ne interpreterà ben 7, dirigendo lui stesso nel 1989 Star Trek 5, ottenendo un Razzie Award, la pernacchia d'oro. Ma Shatner non abbandona la saga, anzi, nel 1995 comincia a scrivere romanzi di fantascienza tutti legati a Star Trek. Li trovate sul sito ufficiale www.williamshatner.com. Qui potete prenotare anche i suoi album. Sì, si è dato anche alla musica, più che altro cover di classici. La sua Lucy in the Sky with Diamonds è stata eletta la peggiore versione rivisitata di una canzone dei Beatles. Elton John ci perdoni dunque se abbiamo scelto la sua Rocket Man. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am. Oh, no. I'm a Rocket Man. Rocket Man. Burning out his fuse out here alone. Altro al cinema o in TV? Certo che sì! Se guardate con attenzione, lo riconoscete nell'aereo più pazzo del mondo, sempre più pazzo, e con qualche chilo in più in Miss Detective con Sandra Bullock e Palle al balzo con Ben Stiller. Soprattutto però potete averlo rivisto in TV, dall'82 all'86 nella serie T.J. Hooker, dove era il poliziotto che dà il nome al telefilm, e in Boston Legal dal 2004 al 2008, in cui è l'avvocato Danny Crane, ruolo che gli vale un Emmy e un Golden Globe. È vegetariano, una parte del college in cui ha studiato è dedicata a lui, a una stella sull'Hollywood Boulevard. Il suo episodio preferito di Star Trek è il 25esimo della prima serie. Ha registrato messaggi per gli astronauti della NASA. Lo trovate su Twitter con l'hashtag @WilliamShatner. Il successore di Shatner nello Star Trek di J.J. Abrams del 2009 è Chris Pine. Nato a Los Angeles nel 1980, il giovane capitano Kirk viene da una famiglia di attori. Attore il papà e attrici la mamma e la nonna. Il papà, Robert Pine, è il capo dei Chips, i poliziotti in moto della California. Il figlio Chris, prima di diventare Kirk, si è visto in Principe Azzurro Cercasi con Anne Hathaway e in Baciati dalla sfortuna con Lindsay Lohan. Mancano 5 anni a Star Trek, il futuro ha inizio, che gli darà la fama e la nomea di nuovo Harrison Ford, almeno secondo US Weekly. Poteva essere suo anche il ruolo di protagonista in Avatar, ma dice di aver fatto il suo peggior provino di sempre. Ah, La serie classica di Star Trek, lo abbiamo accennato, è stata creata da Gene Roddenberry ed andò in onda negli Stati Uniti sulla NBC a partire dal settembre del 1966. Pensata per durare 5 anni, fu cancellata dopo 3 stagioni per gli scarsi risultati di pubblico e di pubblicità, tanto che rischiò di essere interrotta già al secondo anno. Non accadde per una rivolta senza precedenti dei fan. Le repliche della serie, delle 79 puntate in tutto girate in 3 anni, furono poi trasmesse per molto tempo in collaborazioni con altre reti televisive, con un successo che crebbe nel tempo. Ne parliamo con Lorenza Negri, che scrive per il settimanale Film TV e che è anche una accanita fan della serie Star Trek. Lorenza, quindi un successo a scoppio ritardato? Ma prima di tutto perché il creatore di questa serie, Gene Roddenberry, aveva fatto qualsiasi cosa per riuscire a farla comprare da un'emittente americana. Il problema è stato che lui aveva programmato 5 anni di stagioni. Infatti all'inizio si sente, nella sigla iniziale si sente dire siamo in missione quinquennale, e invece la serie è durata solamente 3 stagioni. Questo è successo perché la produzione alla fine non ha voluto andare avanti, gli ascolti non erano stati soddisfacenti, però esiste una cosa in America che si chiama syndication, che permette a una serie di essere trasmessa sulle emittenti locali. Col passare degli anni tutte queste repliche hanno avuto un successo spaventoso e la serie ha raggiunto lo statuto di cult. Star Trek è andata in onda per la prima volta in lingua italiana all'inizio degli anni 70 sulla televisione della Svizzera italiana e poi nel 1978 su Tele Monte Carlo. La serie è diventata nota al grande pubblico in Italia soprattutto 2 anni più tardi con l'uscita del film omonimo di Robert Wise e la diffusione attraverso le televisioni locali a partire dall'estate del 1980. Non è un dato scientifico, ma è probabile che da allora le repliche non siano mai state interrotte. Di sicuro, Lorenza, Star Trek è una serie di intrattenimento puro, ma conteneva e contiene elementi fortemente innovativi. Se pensiamo soprattutto che era la fine degli anni 60, c'era la Guerra Fredda e i diritti civili delle minoranze, mi riferisco agli afroamericani, non erano proprio scontati. Lorenza Negri. Beh, quello era sempre merito della visione di Roddenberry, che era veramente una figura eccezionale. Lui aveva preparato si era fatto questa idea, questo progetto, in cui non solo tutte le razze umane andavano d'accordo, non solo gli umani erano aperti a qualsiasi incontro con alieni, ma anche c'era emancipazione femminile, le donne avevano gli stessi diritti degli uomini. Queste cose da una parte sono andate in porto, e infatti vediamo che Star Trek c'è, famigerato, famosissimo, primo bacio interrazziale tra Uhura, che è un membro dell'equipaggio dell'Enterprise, e il capitano Kirk, che è famigerato sciupa femmine. E poi c'è la parte in cui la donna in teoria avrebbe gli stessi diritti dell'uomo, e questa cosa qui è andata un po' meno in porto. Perché è andata un po' meno in porto? Perché nel progetto originale di Roddenberry c'era un primo ufficiale donna, anzi lui sognava un capitano donna e li hanno subito cassata. Ha girato un primo pilota in cui c'era il primo ufficiale donna, che poi era la moglie futura Major Barrett, che è stata ripresa per fare il resto della serie ed è finita a fare l'infermiera con la gonnellina. Tanto che se tu senti sempre la famosa presentazione della sigla, si parla di visitare luoghi sconosciuti dove nessun uomo mai giunto prima. Pioggia di critiche negli anni 70, negli anni 80 nello spin-off successivo a Star Trek, che era Next Generation, tolto uomo, dove nessuno è mai giunto prima. Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. E E sicuramente, come avete sentito, uno dei momenti più ricordati di Star Trek è quello in cui il nostro amico Kirk bacia Uhura, la sua ufficiale alle comunicazioni, interpretata da Nichelle Nichols. Uhura, prima persona di colore a ricoprire un ruolo di ufficiale comandante e prima a mostrare l'ombelico in una fiction televisiva, è protagonista, era il novembre del 68, del primo bacio interrazziale della televisione. Su internet abbiamo trovato un video in cui Nichelle Nichols racconta un dietro le quinte di quel momento epocale per la TV di tutto il mondo, però lo sentiremo tra poco. Restate con noi. L'amico immaginario. Diario del capitano, data astrale 2713.4. Abbiamo ricevuto un segnale dal pianeta Exo 3. Il dottor Roger Corby è stato localizzato. Lui e parte della sua spedizione sono rimasti vivi grazie alla scoperta di rovine sotterranee lasciate dai primi abitanti di questo mondo. Rieccoci con il nostro amico immaginario, con il comandante dell'Enterprise James T. Kirk, protagonista insieme alla bella ufficiale alle comunicazioni afroamericana Uhura del primo bacio interrazziale della televisione mondiale. Era la fine del 1968. I Pink Floyd iniziavano un tour in Svizzera, il Partito Comunista Italiano di Berlinguer veniva ricevuto al Cremlino, negli Stati Uniti Nixon conquistava la Casa Bianca e sulla rete NBC il capitano Kirk baciava Uhura nell'episodio Platos Stepchildren, nella versione italiana Umiliati per forza maggiore. Sentiamo il dietro le quinte, ricordato da una dei protagonisti, l'attrice Nichelle Nichols, il tenente Uhura. I'm so frightened, Captain. I'm so very frightened. And so when the kiss came along, I saw it says Kirk kisses, takes her in his arm and kisses her. Il copione riportava: Kirk la stringe tra le braccia e la bacia. Quindi giriamo la scena. Oh, capitano, mi fanno paura. No, non abbia paura. Insomma, ci baciamo. Il regista grida: taglia! Ci fermiamo. Va da Shatner e gli dice: cosa stai facendo? E William gli risponde: beh, la bacio. C'è scritto nel copione: io sono Kirk, lei è Uhura. Insomma, io me ne vado in camerino ed ecco che arrivano i dirigenti della Paramount e della NBC. C'era anche Gene Roddenberry. Si mettono tutti a confabulare. E qui si dimostra il genio di Roddenberry, che dice: giriamole in entrambi i modi. Domani guarderemo i giornalieri e prenderemo una decisione. Tutti contenti, ci mettiamo a girare. Facciamo la scena con il bacio. E poi ancora e ancora per mezz'ora, con Shatner che ogni volta vuole farla con una variante. Io rido sotto i baffi, perché ho capito le intenzioni di William. A un tratto l'aiuto regista dice: ci sono rimasti solo 6 minuti per la scena finale, prima di passare agli straordinari, e non possiamo, è venerdì. Allora ci mettiamo a girare la scena senza bacio. Shatner fa tutto come da copione, ma alla fine della ripresa incrocia gli occhi, da strabico. Nessuno se ne accorge, se non il giorno dopo, quando vengono visionati i giornalieri. Ci fu un silenzio improvviso. Tutti cercavano di non ridere. Poi i dirigenti si alzarono e uno di loro disse: lasciamo il bacio e che gli stati del sud se ne vadano al diavolo. E grazie a loro quello divenne il primo bacio interrazziale della storia della televisione. Il merito va a loro. And that, to their credit, that became the first interracial kiss on television. To their credit, they let it go. In quell'episodio Kirk stringeva tra le braccia e baciava Uhura, costretto dai poteri mentali di questi strani alieni, ma bisogna dirlo, il nostro amico immaginario ha tra le sue caratteristiche la quasi totale incapacità di resistere al fascino femminile, anche quando si tratta di fascino alieno. Sentiamo allora ancora Lorenza Negri di FinTV sul profilo caratteriale del comandante Kirk. Kirk è una figura estremamente affascinante. soprattutto perché comunque era interpretato da William Shatner, che anche oggi sappiamo essere un personaggio assolutamente fantastico, e il capitano Kirk è paradossalmente un po' la negazione di tutta questa visione illuminata, dove l'uomo è un esploratore pacato, avanzatissimo. Lui è prima di tutto è molto impulsivo, non rispetta le regole, perché un capitano per esempio non abbandona mai la nave, cioè lui è il capo, la sua incolumità è importante. Infatti poi nelle serie successive fu sottolineata questa cosa: il capitano sta su, il primo ufficiale e gli altri vanno in missione, se ci lasciano le penne, amen. E invece lui cosa fa? Va in missione, mette la sua vita a rischio, ha sempre queste reazioni impulsive, c'è sempre un modo in cui riesce a strapparsi la maglietta, a mostrare il petto per far vedere che è un duro. Ogni aliena che incontra la avvicina, diciamo, gli va quasi sempre bene, e non è propriamente il modello di capitano che ti aspetteresti in una serie dove si ha una certa idea dell'umanità. E invece questa è la cosa affascinante, il contrasto, perché poi loro gli hanno messo accanto il mitico Spock, che è esattamente l'opposto, e assieme sono una coppiata eccezionale. E come abbiamo accennato, tanta popolarità nel mondo Star Trek l'ha conquistata grazie non solo alle repliche della serie classica, ma anche al lungo percorso cinematografico iniziato nel 1979 con il primo film della serie, firmato da Robert Wise. Era la prosecuzione della serie classica, ben 9 anni dopo la fine della programmazione originale sulla NBC. E per ricordare assieme un po' di storia cinematografica di Star Trek, ci affidiamo alla voce del cinema di questa emittente, Franco D'Assisti. Franco, a te. Sì, ricordiamo innanzitutto che Star Trek arriva al cinema 13 anni dopo la serie televisiva, l'inizio della serie televisiva, quindi come dire con un brand veramente molto molto affermato ormai. Uno Star Trek che nasceva dall'idea di un episodio pilota per una nuova serie TV, poi si pensò che forse non sarebbe stato il caso di farla e che invece poteva essere il caso di creare un film, di allungare un po' i tempi. E la regia di questo film venne data a un grandissimo nome del cinema, il 4 volte premio Oscar Robert Wise, che era un po' vecchio ormai sul viale del tramonto in termini anche di regia, però era stato il grande padre di generi come il Melò, come il musical, pensate a West Side Story, tanto per dirne uno, e che aveva però fatto anche fantascienza in gioventù e che quindi si prestò a questa prima regia. Fu un film colossal in tutto e per tutto, un film che costò quasi 50 milioni di dollari all'epoca, che ne incassò 112, che tutto sommato non era una cifra deludente, ma che sotto il profilo del valore cinematografico non è certo un film che rimane alla storia per quello, è un film slabbrato, è tutto anche già un po' visto per quanto riguarda una trama piuttosto esile. Da lì in poi invece la serie è ripartita al cinema, incrociando mondi, incrociando sequel soprattutto di dubbia qualità, soprattutto il 2 e il 3. Star Trek 4 è il film che forse dà un po' di ironia, di umorismo a questa serie, c'è davvero forse un picco ironico che ci porterà poi verso gli ultimi 2 episodi dello Star Trek classico, cioè di quello con Kirk, William Shatner alla tolda dell'Enterprise, appunto l'ultima frontiera è rotta verso l'ignoto, da lì in poi si passerà ai nuovi protagonisti. Il futuro, anzi il presente di Star Trek, si chiama J.J. Abrams, grande innovatore del piccolo e del grande schermo dei tempi nostri. La sua firma sullo Star Trek del 2009 e sul prossimo in arrivo nel 2013. Franco D'Assisti, parlacene un po'. Il nuovo Star Trek, che si intitola semplicemente Star Trek, perché appunto è un reboot praticamente della saga, ha avuto un'accoglienza importante in tutto il mondo, in tutti i mercati del mondo, e anche un gradimento, devo dire, notevole, almeno in quelli della nostra generazione. Chiaramente bisognerebbe vedere cosa ne pensa un ragazzo di 15, 16, 20 anni di oggi, che non ha quindi quel legame da cordone ombelicale con la vecchia serie. Però per noi è stato tutto sommato un esempio azzeccato di di remake, di prequel, tanto che appunto la Paramount ha deciso di farne subito un sequel, Star Trek 2, che arriverà nei cinema il 17 maggio del 2013, c'è già una data, verrà girato, è stato girato, perché in realtà è stato girato all'inizio dell'anno, in 3D, e quindi avremo, anche qui dovremo scontrarci con gli occhialini per vederlo, però appunto ha ancora la mano importante in questo senso di uno come J.J. Abrams, che come dicevi giustamente è un innovatore dei nostri anni, così come lo furono i creatori di Star Trek in quegli anni, e alle musiche voglio segnalare il ritorno del compositore Michael Giacchino, compositore che ha fatto tante cose molto belle anche per casa Disney, Pixar, e che quindi assicurerà anche sotto quel profilo il massimo, un premio Oscar come lui per questa cosa. Sicuramente un film molto molto atteso, che arriverà con tanti concorrenti, perché in quel periodo arriveranno in sala anche Iron Man 3, soprattutto Iron Man 3 direi che sarà un po' l'osso duro da spolpare, però insomma penso ci sia spazio per tutti. E torniamo tra pochi minuti con l'amico immaginario. L'amico immaginario. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Per tornare in quest'ultima parte della trasmissione, ad immergerci nel mondo del Capitano Kirk di Star Trek, ci affidiamo a Nick McCaig. È una recente star di internet che ha reinterpretato da solo e a cappella molti brani famosi, compresa la colonna sonora di Star Trek che sentite in sottofondo. C'è un aspetto molto interessante nell'universo di questa saga di fantascienza, forse più che in altre, è la tecnologia, la fisica, il futuro immaginato e confrontato con la realtà di oggi. Teletrasporto, velocità curvatura, iperspazio, i phaser. A questo proposito, e prima di parlare molto sul serio con un professore di fisica teorica, Franco D'Assisti ci svela un particolare che non conoscevamo. Beh, diciamo che il primo Star Trek cinematografico del 79, quello appunto diretto da Robert Wise, ebbe un consulente scientifico d'eccezione, niente meno che Isaac Asimov, che oltre a essere il padre della moderna fantascienza era anche uno scienziato di una certa levatura, e che quindi tentò di adattare, di rendere plausibile quello che si vedeva durante le puntate, durante il film, soprattutto l'episodio cinematografico. Ora, non mi sembra che il suo apporto abbia tenuto lontano il primo Star Trek da accuse di implausibilità, però ovviamente quando ci si rapporta la fantascienza bisogna anche prenderla per quello che è. C'è quel suffisso fanta che tutto sommato è importante, perché la fantasia deve lavorare con la scienza a garantire l'aspetto scienza. In questo caso c'era appunto Isaac Asimov. E allora, vedremo mai i nostri corpi smaterializzarsi a Milano e ricomporsi istantaneamente a New York con il teletrasporto? Potremo mai viaggiare a velocità curvatura o warp sfruttando l'energia dell'antimateria o sparare con una piccola pistola laser? Abbiamo posto queste domande a Leonardo Castellani, professore ordinario di fisica teorica all'Università del Piemonte Orientale, che ha scritto insieme a Giulia Alice Fornaro il saggio Teletrasporto dalla fantascienza alla realtà. Energia. Dunque, quello che si vede in Star Trek è ancora lontano. Quello che è vicino e che anzi è già possibile oggi nei laboratori di ricerca è di teletrasportare sistemi di pochissime particelle. Bisogna fare attenzione quando si parla di teletrasportare, in realtà si tratta di trasportare a distanza degli stati fisici di sistemi di poche particelle. Essendo le particelle tutte identiche tra loro, se distruggo un fotone qui e lo ricreo esattamente nello stesso stato fisico su Alfa Centauri, dico di avere teletrasportato un fotone. Ma il teletrasporto non ci basta, professore. Il motore a curvatura è un'idea folle o cosa? Warp drive, Mr. Scott. È un po' immaginifica, è basata su una cosa accettata dai fisici e usata dai fisici da più di 100 anni a questa parte, cioè la relatività generale. Nella teoria di Einstein, che spiega i fenomeni gravitazionali, c'è effettivamente il concetto di uno spazio-tempo che si curva, ed è questa curvatura che poi si manifesta sotto forma di attrazione gravitazionale. Quindi la curvatura dello spazio è qualcosa dello spazio e del tempo, è qualcosa che effettivamente si osserva anche con i dati astronomici. Quindi su questa cosa Star Trek, diciamo, si è ispirato in modo abbastanza fedele a quelle che sono le nostre conoscenze oggi. E rimaniamo in ambito tecnologico, ma meno fantascientifico. Il marchio Star Trek è fortissimo in tanti campi, dal merchandising ai videogiochi. Proprio di questi vogliamo parlare un attimo con Marco Giannatiempo, giornalista e professionista della comunicazione, uno dei massimi esperti in Italia di videogames. Star Trek ha la caratteristica di essere nato anche a livello di videoludico molto tempo fa, nel 71 addirittura il primo gioco testuale dove si impartivano gli ordini anche nei panni di Kirk. Poi naturalmente sono nate centinaia di evoluzioni di giochi, tra cui quelle un po' più pesanti, potenti, tra quelle che hanno poi abbracciato il mondo del PC all'inizio e delle console. La caratteristica è che ha seguito un po' l'evoluzione di chi ama Star Trek, andando appunto a far interpretare i personaggi più importanti. Naturalmente Kirk è presente nel 90% dei giochi, tutti i giochi che ancora oggi sono giocati. Ad esempio, leggendo nei forum, un gioco come Star Trek Encounter, gioco per PlayStation 2, dunque una generazione vecchia di console, è ancora molto giocato. Questo perché alcuni degli amanti di Star Trek amano comunque vestire i panni del capitano Kirk, non solo andando appunto magari agli show e vestendosi fisicamente, ma anche vivendolo tramite il videogioco. Un grande passo è stato fatto per quello che riguarda appunto Star Trek 3 anni fa circa, quando appunto è uscito Star Trek Online. Star Trek Online ha cambiato sostanzialmente il modo di vedere il mondo di Star Trek, perché non era un videogioco che ognuno si giocava da casa sua, in single play, come si dice in gergo, ma apriva al mondo della rete, dunque a tutto il mondo, la possibilità appunto di incontrarsi anche online ai vari appassionati di Star Trek. E sul web, la rete delle reti, come sempre, testiamo la popolarità dei nostri amici immaginari e del loro mondo. Sentiamo il risultato della nostra ricerca. $75,5 million di risultati. Star Trek è una potenza in rete. Il sito ufficiale è startrek.com. Per i nuovi film dovete guardare startrekmovie.com. Il fan club ufficiale italiano è stick.it, ma potete guardare anche startrekitalia.com, che si presenta come spazio di discussione dedicato a tutti gli estimatori italiani della serie. Su entrambi trovate articoli, sondaggi, risorse e informazioni tematiche, come su WebTrek Italia. Oltre al classico Wikipedia, per trovare dati potete anche andare su Memory Alpha, progetto collaborativo per creare la più accurata enciclopedia di Star Trek. È in inglese, al momento ci sono più di 34.000 articoli. Decine le possibilità di giocare online: trekportal.it, starfleettheheadquarter.net, Star Trek Online, startreknuovaera.it, Star Trek Century e resurrection.it, gioco di narrazione italiano ambientato nell'universo di Star Trek. 7 equipaggi e oltre 70 giocatori interagiscono nel quadrante gamma. Se cercate il capitano originale, andate su williamshatner.com, dove trovate in vendita i suoi libri e i suoi album, e anche su Twitter @William Shatner, su Facebook per Star Trek oltre 2 milioni di mi piace. Cercando il dottor Spock, non vi confondete con il motore di ricerca che indicizza le persone e che ha Spock come acronimo per Single Point of Contact by Keyword, o con il pediatra Benjamin McLean Spock, il cui libro è nelle case di tutte le mamme americane. Su Twitter c'è @StarTrek, ma anche @TheRealNimoy, Leonard Nimoy, che segnala qui il link alle sue fotografie. Su YouTube si trovano quasi tutte le serie. Vi consigliamo di guardare Il primo bacio interrazziale della TV statunitense, Case pazzesche, Star Trek ovviamente, How It Should Have Ended, come sarebbe dovuto finire, con un finale alternativo, Star Trek vs. Austin Powers e la versione della canzone a cappella. 122 milioni di immagini, oltre a quelle del cast e i disegni scientifici per realizzare la fisica di Star Trek, e Ray Abdallah di Giordania, grande fan della serie, in una comparsata. C'è la foto, ma anche il video del 1995. Internet non ci permette solo di trovare, come avete sentito, contenuti, giochi, video relativi al Capitano Kirk, ma anche di comprare praticamente tutto quello che vogliamo per riempirci la casa di memorabilia relativi all'universo di Star Trek. Il capitano Kirk può battere un vulcaniano a scacchi e non beve mai il tè. Sono solo due delle ragioni per cui Kirk è meglio di Picard, capitano dopo di lui in Star Trek The Next Generation. Due ragioni che trovate stampate su una maglietta all'asta su eBay, insieme a migliaia di memorabilia arrivati dallo spazio. Ci sono gli scacchi tridimensionali tipici dei momenti di relax sull'Enterprise, effettivamente un po' ingombranti. Foto e locandine autografate, modellini di astronavi, bambole e spille con i personaggi da collezionare. A Trafalgar, nell'Indiana, c'è chi mette all'asta un diario di bordo con le memorie del capitano, con la firma di William Shatner, appena $20 la base di partenza. Si trovano un po' in tutto il mondo Lego e bambole di misure diverse con guardaroba più fornito di quello di Barbie. Forse non lo volevate sapere, ma esiste un Ken in abiti da Kirk. A proposito di armadio, non è difficile da trovare l'uniforme da adulto e bambino. Se siete in vena di follie, dal sito ultimoavamposto.com vi consigliamo il flipper di Star Trek a €1.500. Per gli amanti del gioco, le carte da poker della serie e il Monopoly Klingon. Per i più piccoli, l'Enterprise di peluche. Trovate tutto, compresi tazze e portachiavi, su StarTrekMemorabilia.com e StarStore.com. All'Official Store c'è anche il diploma della flotta stellare e la sedia gonfiabile del capitano. Anche Christie's ha messo all'asta memorabilia spaziali nel quarantennale della prima serie. E ripartiamo per l'ultima volta oggi a velocità curvatura. La rotta lasciamo che ce la indichi il nostro amico immaginario, il capitano James Tiberius Kirk. Grazie a voi per l'ascolto, a Giancarlo Ricci e a Chiara Pizzimenti per la collaborazione. Un saluto da Giovanni Savarese. Che rotta, capitano? Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.